io penso sempre a te, si non te vedo, te sogno tra le rose e le viole. Io non te chiedo niente, no, te chiedo soltanto tre parole, soltanto tre parole. Si vuoi fa gode st'anima che langue tra le pene, piglia la penna e scrivami. E te voglio bene. So tre parole, ma ce voglio il fuoco che possiedono le stelle. Io me contento, sì, te pare poco, scegliene tre più belle, scegliene tre più belle, scegliene tre più magiche per sollevar ste pene. Adesso intanto scrivemi, te voglio bene. Quella marina bianca de velluto fa tante carità ch'io me c'è incanto. Bellezza scrivi ad opri la un minuto per me che t'amo tanto, per me che t'amo tanto. Tu solo ancora un attimo poi solleva ste pene, adesso intanto scrivemi, te voglio bene.